Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Mezzogiorno, ora della strage, la Francia si ferma. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà, a tanto terrorismo, sia terrorismo isolato, sia terrorismo di Stato. L'attacco a Charlie Hebdo è di fatto una sorta di 11 settembre europeo 2.0. Professor Sergio Romano, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera, abbiamo sentito quello che è capitato a Parigi, è veramente l'11 settembre per l'Europa? La percezione naturalmente è quella, le percezioni contano, ma quando noi parliamo dell'Islam, delle aggressioni dell'Islam, inevitabilmente dimentichiamo che la vera guerra che l'Islam sta facendo in questo momento non è la guerra contro di noi. La guerra contro di noi serve a reclutare, perché è quella che ottiene la maggiore pubblicità internazionale. Certo. Ma la vera guerra è la guerra civile che è all'interno, in corso nel mondo musulmano. E di quella guerra civile sono vittime la Nigeria, il Kenya, l'Egitto, la stessa Tunisia, dove si combatte contro i salafiti al sud. Insomma, è la guerra civile nel mondo musulmano che dovrebbe interessarci in modo particolare. Ecco, però gli Stati Uniti, con la loro contraddizione nella lotta al terrorismo, sembrano più destabilizzare che rassicurare il mondo. Perché? Ma anzitutto perché nel 2003, naturalmente, come sappiamo, il presidente Bush ha adottato una linea politica neoconservatrice che considerava la trasformazione del Medio Oriente come la premessa per una maggiore egemonia americana nella regione, e ha quindi destabilizzato l'intera regione. Tutto comincia in quel momento. Ecco, professor Romano, ma perché Bin Laden, se combatte i sovietici, è un eroe, invece se abbatte le Twin Tower diventa il capo del terrorismo mondiale? Vede, la contraddizione è dovuta al fatto che gli Stati Uniti pretendono di agire come potenza morale. Sono una potenza come le altre, non possono non tenere conto della realtà delle cose, fare scelte anche ciniche se necessario, ma vogliono essere percepiti come potenza morale, quindi entrano nel circuito della contraddizione permanente. Ecco, però a quell'epoca Putin proprio scrisse al New York Times e offrì l'appoggio agli Stati Uniti per la lotta al terrorismo, appoggio rifiutato. Appoggio rifiutato perché naturalmente dietro la proposta di Putin l'America si ostinava a vedere soltanto, come dire, un disegno politico, strategico, di penetrazione russa nel Medio Oriente, e questo non l'avrebbe mai accettato. Tenga presente che in Siria si fanno guerre per procura, a un certo punto gli Stati Uniti hanno visto nel sostegno che Putin dava a Bashar al-Assad un elemento così negativo per loro da in qualche modo immaginare che si potesse sostenere l'opposizione ad Assad. Ecco, professor Romano, però anche l'Arabia Saudita, che è uno Stato assolutamente totalitario e finanzia il terrorismo arabo, in realtà è il grande alleato degli americani, che però pretendono, come dice lei, di essere campioni di moralità, di libertà, di democrazia. È una contraddizione inaccettabile oramai nel mondo globalizzato? Certo che è una contraddizione inaccettabile, ma intendiamoci, contraddizioni fra ciò che si dice e ciò che si pensa e si fa realmente ve ne saranno continuamente nel mondo delle relazioni internazionali. Quello che è particolarmente sgradevole è il fatto che questo cinismo, che questo realismo peraltro, sia poi sostenuto da una potenza che si presume, questo è anche il caso dell'Arabia Saudita, come modello per un'intera comunità internazionale. Le moschee dove l'imam predica la jihad sono molto spesso finanziate dall'Arabia Saudita. Ecco, ma professore, qual è il deficit culturale allora che impedisce agli Stati Uniti di avere una politica estera che tenga insieme i valori proclamati e i realismi degli interessi in campo? Ma credo che all'origine di tutto questo vi sia proprio il desiderio americano, condiviso da una larga parte della società americana, di considerarsi modello. modello di virtù, modello di, da seguire, da adottare, perché è difficile vederla questa virtù in questo momento, perché oggi l'Europa forse ha più interesse a mantenere, a sviluppare i rapporti con la Russia anche per combattere il terrorismo, che mantenere i legami con gli Stati Uniti, che hanno l'Arabia Saudita che finanzia il terrorismo come grande alleato. Sì, dimenticare o trascurare o sottovalutare il rapporto con gli Stati Uniti non è realisticamente possibile, ma considerare la Russia come un partner necessario è fondamentale, anche perché forse ci siamo dimenticati e ancora una volta abbiamo cercato di dimenticare ciò che poteva invece essere fondamentale, è che la Russia è minacciata, non meno di quanto sia minacciata l'Europa o gli Stati Uniti da un terrorismo islamico. Ricordiamo la scuola di Beslan, qualcuno si è ricordato della scuola di Beslan in questi giorni? In questi giorni in cui consideriamo quell'attentato tragico di Parigi come dire l'avvenimento più tragico accaduto negli ultimi 10 anni, certo. La scuola di Beslan? Giusto, ma chi può allora oggi costruire realmente un dialogo con l'Islam che permetta di battere e isolare il terrorismo? Vede, noi dobbiamo cercare di sostenere quella parte dell'Islam naturalmente che riteniamo più semplice per noi avere un rapporto di familiarità e di contatti. E allora bisognerebbe che ci si ricordasse che la vittoria si fa là, si vince là, la battaglia, certo, si vince là. E dovremmo ricordare che il maresciallo Al-Sisi negli scorsi giorni, cosa non piuttosto trascurata dalla stampa occidentale in generale, ha fatto un discorso nella moschea di Al-Azhar, nella università di Al-Azhar, sì, che è il maggiore centro teologico dell'Islam nel mondo, per chiedere agli imam e agli ulema di fare una rivoluzione religiosa, vale a dire di sbarazzarsi di quel pensiero dominante che non è necessariamente il maggiore patrimonio teologico dell'Islam, ma che ha in qualche modo radicalizzato l'Islam sulla base di interpretazioni che secondo Al-Sisi andrebbero interamente riviste. In altre parole, sta chiedendo la modernizzazione dell'Islam, e a questo punto meglio puntare su di lui che su qualcun altro. Ecco, professor Romano, ma nell'analisi della situazione, a qual è l'ipocrisia alla quale bisogna assolutamente rinunciare per avvicinarsi a un risultato? Ma io credo che bisogna rinunciare alla menzogna morale. Pensi quello che sta accadendo in questo momento, noi siamo tutti preoccupati da questo attacco alla libertà di stampa, l'America è schierata tra quelli che considerano intollerabile questo attacco alla libertà di stampa, ma che cosa significa questo? Che si può pubblicare tutto? O significa che l'America è disposta a rinunciare a perseguire Assange? Certo. O che la Francia, per esempio, così colpita in uno dei suoi valori maggiori, per esempio, è disposta a rinunciare a quella legge che proibisce la pubblicazione di libri nazisti o antisemiti, che voglio dire non è poi qualitativamente diverso da ciò che faceva. E quindi ognuno deve rinunciare alla sua ipocrisia. Ognuno deve rinunciare alla sua ipocrisia, e tanto più grande il paese, tanto più grande l'ipocrisia. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Germana Tappero Merlo, esperta di sicurezza e strategia internazionale. Ecco, Umberto Eco, autore del nuovo libro Numero Zero, commentando i fatti di Parigi, dice: siamo in guerra fino al collo, l'ISIS è il nuovo nazismo. D'accordo? Sì, sono perfettamente d'accordo. Perché? Perché l'intolleranza dimostrata da questi fanatici è pari solo a quella dimostrata dai nazisti, quindi è una guerra totale, una guerra che non ha confini e di conseguenza è un estremismo assoluto e che è al pari solo di quello. Sì. Dal punto di vista dell'intelligence, cioè dal suo punto di vista, questo nuovo terrorismo che colpisce appunto in modo inedito va affrontato anche in modo inedito, cioè non convenzionale? sarebbe già stato dovuto colpire in maniera non convenzionale, nel senso che necessario già intervenire nelle regioni là dove questo fanatismo e questo estremismo si è creato, si è forgiato e si sta rafforzando ogni giorno di più. Quindi era necessario già intervenire prima, da parecchio tempo prima. Sì. Ecco, ma però questo ancora, se vogliamo, già in certi paesi, come per esempio la stessa Algeria, da dove poi dopo bene o male provengono dei combattenti che ora ritroviamo in Siria e ritroviamo in Iraq o in Tunisia, cioè non soltanto là dove c'è la guerra. Ecco, ma quali sono gli strumenti che gli intelligence occidentali stanno mettendo a punto o non hanno messo a punto ancora, come dice lei, per affrontare questo problema? C'è una arretratezza proprio anche culturale nel leggere i problemi? No, sicuramente, allora, i sistemi di sicurezza e di intelligence sono preparati a questa sfida, semplicemente la sfida si sta mostrando molto più articolata, nel senso che è molto più ampia. Poi la stessa sfida data del terrorismo è di difficile contenimento, è di difficile, opera in luoghi e secondo schemi inusuali, imprevedibili al 100%, ecco, di conseguenza però, è difficile. Ecco, dottoressa Tappero Merlo, però gli attentatori di Parigi hanno una caratteristica, sono militanti di ritorno, come dite voi nel gergo dell'intelligence. Ecco, cosa vuol dire militanti di ritorno? Allora, si ipotizza che siano elementi di cosiddetto flusso di ritorno, nel senso di combattenti, ossia di elementi nati e cresciuti in Occidente, magari figli di immigrati, magari anche dagli stessi luoghi in cui ora vi sono le guerre, quindi gente fuggita a quelle guerre già tempo fa e ora cresciuti in Occidente e convinti per vari motivi, qui bisognerebbe vedere tutte le spiegazioni sociologiche dove è fallita anche parte della nostra integrazione di questi elementi. Beh, sono quasi dappertutto. Tornati, dati quindi a combattere e di ritorno quindi ora, certo, questi. Però attenzione, ma che caratteristiche specifiche hanno? Ma c'è un altro fenomeno che non si parla solo esclusivamente di flusso di ritorno, ma anche di quella che è catena umana, ossia questi elementi che partono hanno fratelli, cugini e quant'altro che magari non sono riusciti a partire o non hanno potuto partire per vari motivi e sono stati convinti da questi elementi fanatici familiari a rimanere in Occidente e portare avanti il loro jihad all'interno dell'Occidente. Quindi è un nuovo fenomeno. Quindi producono un terrorismo diverso, un terrorismo nostrano in qualche modo. Nostrano, magari questi elementi non si sono manco mossi, questi ragazzi algerini, questi due che sono stati individuati, non si sono manco mossi forse dalla Francia, ma hanno avuto un addestramento magari appunto in Francia. Ecco, però visti in azione, hanno dato infatti l'impressione di essere sanguinari fino all'inverosimile, però non professionisti addestrati, sembrano mandati allo sbaraglio più che altro. Sì, l'azione, da quello che si è visto in quel breve filmato dell'uccisione del poliziotto, si vede un'improvvisazione, soprattutto dal punto di vista tecnico, anche se le opinioni degli esperti sono un po' contraddittorie a questo riguardo, ma per esempio alcuni dicono che si muovevano con movenze quindi molto da addestramento militare, altri dicevano no, attenzione, hanno detto il tiro incrociato ha rischiato di sparare fra i due, oppure hanno tentato la fuga senza guardarsi alle spalle, oppure hanno impugnato il loro Kalashnikov in modo tale che hanno rischiato nella corsa di spararsi un piede. Quindi ci sono elementi di improvvisazione, a volte il fatto della scarpa persa piuttosto che la carta d'identità dimenticata. Ecco, ma la carta d'identità dimenticata è molto sorprendente, però. Ma può essere anche un elemento alcuni dicono anche per deviare le indagini, poi saranno poi le indagini che verificheranno poi tutto quanto. Senta, ma quindi ogni paese europeo in un certo senso è a rischio di una nuova forma di terrorismo? Sì, questo sì, ma non solo l'Europa, l'Occidente, abbiamo visto anche in Australia, sono forme diverse. È un terrorismo, in questo caso si chiama terrorismo molecolare, cioè privo di una direzione centrale, si ipotizza che questi elementi facessero parte di questo terrorismo molecolare, ma in ogni caso Vi sono varie sfaccettature, non c'è un solo terrorismo, certo. Lo stesso terrorismo che hai visto, oppure quello che fa riferimento all'ISIS o Daesh, sono già due forme diverse di terrorismo, con due modi operativi caratteristiche anche diverse dal punto di vista operativo. Ecco, dottoressa Merlo, ma in Italia si parla sempre di più di un pericolo che possa riguardare il Papa e il Vaticano, allora è vero? Sì. Sì, sì, sono sicuramente degli obiettivi sensibili, così come hanno dimostrato per esempio anche questa rivista. Ecco, tra l'altro volevo evidenziare proprio questo, una cosa che differenzia questo attacco rispetto a quelli precedenti. Qui l'obiettivo era un simbolo, un obiettivo ben preciso, certo, e specifico, mentre solitamente il terrorismo che deve creare panico nella vita quotidiana è generico, colpisce la massa, quindi colpisce il mercato affollato piuttosto che la metropolitana. Qui invece hanno colpito un simbolo, un obiettivo specifico, un giornale con un direttore colpito a sua volta da una fatwa, quindi sapevano dove colpire. Così, ecco, i simboli a questo punto stanno emergendo come obiettivo come prioritario. In questo senso Vaticano e Papa possono avere un'attrazione speciale. Un'attrazione speciale, sicuramente. Senta, ma esiste una qualche forma di collaborazione con i rappresentanti del mondo islamico che sono estranei a tutto questo, ai nostri servizi segreti? Sì, questo c'è ed è anzi una delle forme di contrasto più efficace, cioè la collaborazione delle stesse rappresentanti, autorità delle comunità musulmane presenti nei vari paesi occidentali. Questo deve esserci assolutamente, altrimenti per isolare, individuare e isolare. E c'è, funziona in qualche modo. Funziona, e sono loro i primi a voler mettersi a disposizione delle autorità proprio per individuare questi elementi, anche perché è molto difficile individuarli, perché operano attraverso o social network o anche attraverso la rete. Si parla di ragazzi quindi abituati a utilizzare certi strumenti, quindi non è più la moschea, certo, come una volta il centro di incontro, e quindi era facile individuarli fisicamente. Qui si parla di azioni che corrono sulla rete, quindi sia proselitismo, ma anche appunto venire a far parte di un gruppo, ecco, attraverso il monitoraggio quindi dei siti jihadisti e dei social network. Ecco, dottoressa Merlo, un'ultima cosa: per ora non c'è stata alcuna rivendicazione dell'attentato Charlie Hebdo, secondo lei perché? Ma probabilmente proprio perché questi elementi fanno parte, sono o dei lupi solitari oppure degli elementi che insomma operano con questo flusso di ritorno, cioè qualche elemento a sé stante. Quindi non c'è una sigla specifica che lo specifica. Può al momento no. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, sms. Mario, c'è una notizia? Sì, c'è uno scontro a fuoco, però sono veramente un flash, con due sospetti, si dice, al nord, a Saint-Merne. Vediamo un po' vediamo come si sviluppa. Però sapete, queste sono tutte da prendere con le pinze. In questo momento il giornalista di una radio evoca la possibile presa di ostaggi in un'impresa. Questo lo seguiamo e vediamo. Intanto, tutto con molta cautela. Con molta cautela, intanto andiamo in Europa. Dopo la pace, il più grande successo dell'Europa unita è stato la costruzione del mercato unico, che ci ha assicurato decenni di benessere. L'Europa è una moneta o è un'idea della vita? L'Europa è innanzitutto nata dalla richiesta di pace, di libertà, di democrazia. I nostri nonni hanno fatto l'Europa contro la guerra, non per una moneta unica. L'euro avrebbe dovuto far fare un altro passo avanti al mercato unico. All'arrivo della crisi, però, le differenze fra i paesi sono diventate un problema. Anche, ma non solo, perché l'euro non permette più a un paese in difficoltà di svalutare la propria moneta per favorire le esportazioni. L'euro è stato un passo più lungo della gamba o un passo troppo corto? Non c'è possibile stabilità se non c'è crescita in Europa, e in questi anni le politiche economiche hanno fallito per questo. Si è immaginato di fare dell'Europa soltanto un luogo di stabilità. La stabilità senza crescita diventa immobilismo. Ecco, onorevole Simona Bonafè, buongiorno, super votata eurodeputata del PD alle ultime elezioni. La settimana prossima, il 13, Renzi chiuderà il semestre europeo con un discorso al Parlamento, appunto. C'è attesa? Beh sì, c'è una grande attesa, intanto perché l'Italia ha colto l'opportunità della guida del semestre di presidenza europeo, da una parte per sollecitare un cambiamento forte nelle politiche dell'Unione, penso a quelle economiche, ma non solo, anche ai temi dell'immigrazione, della disoccupazione generale. Ma cambierà il tono del discorso per quello che ne sa lei? Ma io penso, spero e mi auguro che sarà un discorso forte sul futuro dell'Europa, sulla direzione che vogliamo prendere, ma anche a partire da un cambiamento forte nelle politiche economiche. Insomma, un discorso di sostanza, diciamo. Un discorso di sostanza, ecco. Assolutamente di sì. Il semestre europeo a guida italiana, per ammissione dello stesso presidente Renzi, però per ora ha portato, e siamo alla fine, solo a un cambio di vocabolario, ha detto lui. Ma non è un po' poco il cambio di vocabolario? Come guardi, risultato? Passare da austerity a politiche di sviluppo e di investimento, perché questo è successo, io penso che non sia solo un cambio semantico. Stiamo sempre nel livello delle parole, però insomma. Ma le do però un dato, cioè gli investimenti pubblici in Europa hanno subito un crollo a seguito della crisi, sono passati da 330 miliardi nel 2009 ai 250 nel 2013, oggi tornare a parlare di piano di investimenti appunto è un cambio, è una torsione di prospettiva importante. Senta, comunque se questi mesi c'è stato l'allenamento diciamo per ottenere risultati, il 2015 sarà senz'altro l'anno della partita vera per Renzi a Bruxelles, così no? Ma non c'è dubbio, ormai si decide tutto a Bruxelles e il nostro paese non può stare ai margini. Certo, Renzi oggi è forte dei risultati che sta portando a casa in Italia, arriverà al tavolo europeo con in mano la carta della credibilità e le assicuro che non è poco per un paese che è visto dall'Europa come quello che ha cambiato 4 presidenti del Consiglio in 4 anni. Certo, adesso arriva la partita più impegnativa, che è quella di dimostrare per Renzi di essere un leader europeo e portare a casa dei risultati. Intanto la situazione greca e la possibile, anzi probabile a seconda degli osservatori, vittoria di Tsipras può aiutare la Germania a capire che l'Unione Europea rischia di saltare sulle politiche d'austerità? Ma guardi, io penso che per l'appunto salta il progetto dell'Unione Europea non se vince Tsipras, come molti stanno dicendo in questi giorni, ma se continuiamo ad andare avanti in questo modo, cioè se continuiamo a porci il problema del rispetto dei vincoli e dei parametri, chiudiamo gli occhi davanti alla disoccupazione che aumenta o all'Europa che non cresce da Ecco, però anni. Questo, onorevole Bonafè, può essere un elemento che aiuta, perché per ora Bruxelles sembra reagire solo con nervosismo, con frasi fatte a questo rischio greco. È un riflesso condizionato di paura burocratica, sembra. Sì, può essere così. Io d'altra parte non sono un economista, ma il ministro Padoan, che è una figura ben più autorevole della sottoscritta, ha ricordato che insomma il rischio che oggi la situazione salti per colpa della Grecia non c'è, anche perché oggi c'è un fondo salva stati, oggi parliamo non solo di unione monetaria ma anche di unione bancaria, e lo stesso Draghi ha assicurato più volte che non c'è un exit strategy all'euro e che la BCE farà di tutto per garantire la stabilità della moneta, compreso il quantitative easing. Sì, però onorevole Bonafè, qualcuno a Bruxelles dice la Grecia non può uscire dall'euro perché i trattati non lo consentono. Insomma, è caduto l'impero romano. Penso che sia una sciocchezza questa. Guardi, i trattati non lo consentono, è vero, però mi par di poter dire che il punto è politico e allora dobbiamo intenderci una volta per tutte, cioè l'Europa è un contratto di comodo per qualcuno, leggi la Germania, o è un'unione di destini? E se è un'unione di destini, mi permetta, ma non può che basarsi sulla solidarietà, terzo non dato. Senta, ma una Grecia guidata da Tsipras però non potrebbe in qualche modo essere un alleato naturale di Renzi sul tema del passaggio dall'austerità allo sviluppo? Anche noi abbiamo detto in effetti più volte in campagna elettorale recentemente che volevamo cambiare verso la politica economica dell'Europa e da questo punto di vista con Tsipras io penso si possa avere un interesse comune. Non è un mistero d'altra parte che su tanti temi, e penso a quelli ambientali, il gruppo dei socialisti vota con la sinistra della UE. Certo, permangono anche forti differenze, perché quando sento che fra i punti programmatici di Syriza ci sta la nazionalizzazione delle banche o la settimana lavorativa a 35 ore, io chiaramente ho una visione profondamente diversa. Ecco, però la Commissione Juncker, per parlare di cose concrete, aveva comunicato un piano di investimenti di 200 milioni, questi 200 milioni sono diventati primaventi, poi sono spariti, non se ne parla più. Che fine hanno fatto? Ma sì, il piano che ha presentato Juncker è un piano timido, timido è la parola giusta, è un buon inizio, sì. Non c'è dubbio, è un buon inizio, ma Juncker non può pensare che il piano sia un'operazione cosmetica, insomma, metti di qua, leva di là e no, poi soprattutto che sono soldi che devono dare gli stati, no? Ma, non si capisce bene questi 200 milioni di cui non si parla più da dove arriverebbero. Appunto, infatti noi aspettiamo di capire con esattezza quali saranno i contorni di questo piano di investimenti, perché è un'operazione con cui noi ci giochiamo il futuro dell'Unione, insomma serve più coraggio e non solo, noi attendiamo anche la comunicazione sulla flessibilità perché da lì capiamo le reali intenzioni della nuova Commissione. Senta Michelangelo, che un nostro ascoltatore ci dice, chieda alla Bonafede il mancato accordo sulla difesa del marchio Made in Italy, è vero? Ma guardi, obiettivamente potevamo fare di più nel semestre europeo su alcuni temi, quella della difesa del Made in è uno di questi, non abbiamo portato a casa il risultato, ma questo non significa che continueremo a lavorare, perché dal marchio del Made in passa gran parte anche della produzione di qualità del nostro paese. Sì, appunto, però la Germania è stata durissima su questo punto. Che cosa pensa in concreto che possa ottenere Renzi di più e di diverso di qualche parola favorevole? Ma guardi, Renzi ha davanti a sé un grosso compito, come dicevo prima, che è quello di acquistare una credibilità, una leadership a livello europeo. Indubbiamente oggi lo sviluppo dell'Europa passa dal piano di investimenti e passa anche dalla capacità che avremo di continuare a battere, come abbiamo fatto fino adesso, sullo scorporo, per esempio, dal calcolo del patto di stabilità, di tutta la parte che riguarda gli investimenti dei paesi e degli stati membri, sì. E non solo, e delle stesse risorse degli stati per il cofinanziamento al fondo famoso di Juncker, sì. Quindi, ecco, onorevole Bonafè, chiedo scusa un secondo, resti con noi, devo dare la pubblicità e poi riprendiamo. Mix 24. Onorevole Bonafè, ha sentito le notizie del breaking news su quello che sta capitando a Parigi? Mario, c'è qualche... Sì, è una fase molto confusa. C'è stato un inseguimento in macchina, una sparatoria, una presa d'ostaggi in un'impresa della zona vicino all'aeroporto di Roissy. Adesso l'ultima, tutta da verificare, è che sarebbero di nuovo in fuga perché hanno preso un'altra auto. Però ecco, tutto con le pinze. Tutto con le pinze. Onorevole Bonafè, lì a Bruxelles, come si è sentita questa vicenda di Parigi? Ma guardi, intanto i tragici fatti che hanno riguardato Parigi sono stati, insomma, attacchi non solo alla Francia, ma diciamo, no, agli ideali di democrazia e di civiltà dell'Europa intera, di ognuno di noi, quindi a maggior ragione la sfida che abbiamo avanti è una sfida europea, una sfida globale, no. Diventa centrale combatterla ognuno dal proprio paese, ma come europei. Senta, onorevole Bonafede, faccio un'ultima domanda. La parola sviluppo, tornando al ruolo che Renzi deve assolutamente svolgere in Europa, riapparirà con degli elementi di concretezza nel lessico europeo oppure di lì non ci muoviamo? No, deve apparire con termini di concretezza, perché oggi, me la faccio dire così, è finito il tempo delle maestrine che danno le lezioni, oggi dobbiamo riprendere in mano lo sviluppo, a partire peraltro da un'interpretazione forse anche un po' più autentica dei trattati, perché fino ad oggi appunto abbiamo interpretato i trattati, ecco, fin dove faceva un po' comodo, ma infatti il professor Guarino dice espressamente, noi lo ripetiamo da molti mesi, dice espressamente che Maastricht è stato tradito e non è mai stato applicato. Non è quello forse un punto di partenza per Renzi per, come dire, ottenere l'esecuzione dei trattati? Ma appunto, noi dobbiamo riprendere in mano i trattati non fin dove fa comodo, come dicevo prima, cioè se il rispetto delle regole deve essere, allora è bene dire che già oggi, per esempio, il trattato di stabilità prevede l'utilizzo di margini di flessibilità di rientro dal debito per i paesi che fanno le riforme, come l'Italia, e ricordare un po' più spesso che il patto è sì di stabilità, ma è anche di crescita, e invece fino ad oggi l'abbiamo un po' dimenticato. Va bene, allora, sentiremo dopo il discorso di Renzi che cosa, se e che cosa cambia. Grazie onorevole Bonafè, buon lavoro. Quando i tuoi sforzi hanno soddisfazione, e allora fanatico il cuore resuscita, e allora frenetico. Pietrangelo? E allora è successo perché anche oggi ho incontrato in metropolitana il filosofo e lui mi ha spiegato che le passioni più autentiche sono quelle che vanno verso un cattivo indirizzo, come un cuore fanatico, come un cuore frenetico, qualcosa che forse ha una soddisfazione, un'agitazione, ed è la costruzione di una vita che sappia dare più della vita stessa. Il filosofo mi ha fatto questo schema. Con Copernico l'uomo si è avviato ad esplorare l'esterno privo di umani verso distanze siderali. Con un colpo di fulmine invece le distanze siderali si spalancano dentro il cuore, che diventa frenetico, il cuore di ognuno, e ciascuno lì come un fanatico si ritrova in un cattivo indirizzo, malgrado le segnaletiche di Cupido. Allora, bolle Mario, sì. Mi pare che possiamo riprendere da dove sei. Dove c'è qualche evoluzione? Sto seguendo questa sparatoria gigantesca... che si è verificata sulla Nazionale 2. Sì, c'è una gigantesca caccia all'uomo in corso. Vabbè, ci sono un paio di elicotteri che stanno cercando di stanarli. Comunque sono molto, molto ben addestrati, perché se sono scappati di nuovo è perché sanno che se restano in un posto vengono immediatamente circondati. Quindi questi sono molto, molto anche professionali. Sono alla caccia, sono 8.000 persone, non so quanti sono. In tutto le forze di polizia, 87.000. 87.000. Mancavano zero. È una cosa senza precedenti nella storia della Francia. Per prenderne due. Vabbè, sì. Intanto, mentre seguiamo... E cosa succede? Parliamo io un po' cosa di bolle. Succede? Bad news, cattive notizie, nel senso che è difficile averne di buoni in questo periodo, però insomma noi facciamo professione di realtà. La produzione industriale in Germania va male, a proposito delle cose che stavamo dicendo con la buona fe, è calata 0,1% in novembre, è un brutto segnale, uno si chiede conseguenze, e conseguenze questo dovrebbe suggerire ulteriormente un'azione espansiva della Banca Centrale Europea. Vediamo con quali strumenti. Stanno tutti attendendo ovviamente le decisioni di Draghi e del board naturalmente della BCE. Escono i dati sull'occupazione americana oggi, sono molto interessanti da guardare, le previsioni sono diciamo di circa 240.000 posti di lavoro in più. Questo sarebbe al contrario invece un segnale per un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Come vedete, dati economici, azione delle banche centrali. Oggi l'economia la fanno le banche centrali, c'è poco da dire. Non è un bene, secondo me, perché poi è sparita così, la politica. Sparisce la politica. Soldi e politica. Tutto su base monetaria, insomma. Secondo me c'è da stare prudenti. E poi money, soldi. Allora, i soldi dell'Ucraina. Io ci torno sempre perché questa cosa sta diventando molto curiosa. Come sapete, c'è stata una missione, è in corso mi pare, la missione del Fondo Monetario Internazionale, servono 15 miliardi. Juncker, ho visto stamattina, propone un aiuto di 1,8 miliardi da parte dell'Europa. Nessuno vuole scucire tutti i soldi, questo è molto chiaro. Però George Soros, un ragazzo sveglio, sempre lui, molto sveglio, ricordate 92 la lira eccetera, insomma propone un aiuto a monstro da 50 miliardi di dollari, leggevo un po' di commenti stamattina eccetera, è molto divertente perché un mare di soldi per un governo così fatto che vi descrivo, ci sono due clan, uno è quello di Poroshenko, l'altro è quello di Yatsenyuk, con un terzo clan alla finestra che è quello dell'oligarca Kolomoyskyj. Ora vi lascio immaginare come hanno gestito il bilancio dello Stato questi finora. Dovrebbero dargli 50 miliardi di dollari. È improponibile. Mix 24. Salamino di Pietrangelo che ci è mancato ieri. Sì. Salamini di governo, Salamini di Gulliver, Salamini lillipuziani. Allora, mentre tutto il mondo discute sull'attentato di Parigi, ancora adesso stiamo aspettando nuove, l'Italia, a maggior ragione quella dei politici, discute di cosa? Della legge elettorale. A margine resta appesa la discussione sulle Quirinarie e quando il governo viene chiamato a rispondere sulle questioni che investono la storia più che la cronaca, si capisce quanto sia ingombrante il contenuto ideologico programmatico dell'era renziana. Insomma, il premier Matteo Renzi necessita di collaboratori, ministri e perfino il prossimo presidente della Repubblica che non faccia ombra. E saranno dei lillipuziani. Insomma, gente che stia ai suoi piedi più che alle sue spalle. Inutile dire gli affanni del ministro degli interni Angelino Alfano, ma il premio Lilliput, se siete d'accordo, io lo vorrei consegnare a Paolo Gentiloni. Riesce a essere perfino peggio di Federica Mogherini. Non ci credo. Credimi, ieri il ministro degli esteri, intervistato da Santoro, è sembrato essere solo il portavoce dell'ambasciata americana e non un italiano, ma solo quando ha difeso la scelta di acquistare altri F-35, gli aerei militari, per fermare il terrorismo, è tornato trasteverino, perché ha lasciato nell'atmosfera un impercettibile aura di aglio e peperoncino. Ed è proprio il governo di Gulliver, questo di Renzi, il Royal Baby, per dirla col titolo del nuovo libro di Ferrara, ed è pronto per lui il biberon. È stato buono a buttare fuoco, no? Deve riprendersi, capito? È stato bravo. Si è ripreso. Ha colpito, c'è ancora una bolla, Mario? Eh sì, dai. Siamo volati in India, questa era la colonna sonora, non mi ricordo più il titolo del film, The Millionaire, sì, ha avuto un attimo, ma grazie Pietrangelo, pure lì ti espandi, hai visto? Che sorpresa che sei per e i nostri padri europei, come ti voglio bene quando fai così. Vabbè, insomma, andiamo in India con The Millionaire, appunto, per dire che nasce una nuova compagnia aerea. Questo è un settore fantastico da seguire per capire come si muove il mondo dell'economia e anche se l'economia è in ripresa o no. Si chiama Vistara, è una joint venture tra il gruppo Tata e la Singapore Airlines e, al contrario di quello che è successo per gran parte di questi anni, cioè lo sviluppo di di compagnie low cost, loro si occupano invece di fare una compagnia che offre servizi abbastanza costosi, ma insomma per i clienti business. Esatto. Contro tendenza totale, devo dire, ho guardato i dati, ci sono 7-8 compagnie aeree in India, sono quasi tutte in perdita quelle low cost, solo una mi pare, Indigo o qualcosa del genere, è inutile, e questa è una cosa da seguire con attenzione perché potrebbe essere un modello di business per l'aviazione civile. Certo. Insomma, vediamo. Vabbè, poi che oggi, succede. E oggi doppio lavoro per Sara, dopo aver curato il nostro 3D, come tutti i venerdì torna la nostra posta del cuore. Scriveteci intanto a mix24@radio24.it. Sara, allora? Ho scelto la lettera di Io dormo da sola a 42 e adesso capirete perché. Ho 42 anni, non ho figli, sono single e va bene così. Perfetto. C'è stato un periodo in cui la mancanza di una famiglia ha rappresentato lo spettro di un fallimento da evitare a ogni costo, ma a un certo punto mi sono messa l'anima in pace. Ho un buon lavoro, molte amicizie e una vita sessuale interessante. Il mese scorso poi ho conosciuto un uomo e ci piacciamo molto, ci vediamo spesso, ma poi ognuno a casa propria. Finché l'altra sera mi abbraccia teneramente nel mio letto, lasciando chiaramente intendere di non avere nessuna intenzione di andarsene. Attimi di panico. E poi ho scelto la sincerità. Perdonami, io non me la sento. Io dormo da sola. Sul momento ha incassato bene il colpo, ma il giorno dopo non si è fatto sentire. Qualcosa si è rotto e non so però se ho voglia di aggiustarlo, perché la verità è che quando mi sono infilata sotto il mio piumone ero felice. Ho passato decenni a sognare di dormire abbracciata al mio uomo e adesso mi dovrei scusare perché mi sono finalmente liberata dalla prigione del dormire a cucchiaio? Pietrangelo, attenzione, ma io sapevo che erano gli uomini ad avere l'incubo del dormire abbracciati, ma si può essere felici ognuno nel suo letto, secondo te? Un minuto di riflessione, no, subito. Allora, intanto la bella musica sparisce sempre. Dopodiché, sai, Silvio Leoni, un mio amico, ha inventato una scatolina, non so se magico-meccanica o chissà come definirla. Comunque, questa scatolina ha un pulsante e lui ogni volta, che è un grande seduttore, ritrovandosi nelle spire dell'amore, quando tutta la passione si è esaurita, si è finita nel gioco di una notte, pigia. No, no. Su questo tasto si apre una botola e lei sparisce. Io ovviamente sono in Vietnam, inorridito rispetto a questa invenzione di Silvio. E allora me la cavo dicendoti che non si è felici nel proprio letto quando si è sempre bravi nel saper trasformare ciò che nella veglia è sogno nel sogno che nel sonno diventa una promessa di veglia. Sempre molto bello. Io sono sempre invece più pop, perché questa lettera di Io dormo da sola mi ha fatto venire in mente loro. Sempre in questo letto con te da 30 anni. Ma io sono stufa, sai. Io non ne posso più. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. Dici di dormire? Sei stata bene stanotte? Così così, niente di speciale. Ecco, quando Sandra Mondaini, io ero bambina, no? Si lamentava della noia nel lettone con il suo Raimondo, la sensazione che mi dava guardandola era invece la gioia. La gioia di condividere quella noia, di condividere quel lettone e la vita con i suoi sogni e sicuramente anche la sua dose di noia. Allora, io dormo da sola a 42, il mio motto che ti presto oggi è mai dire mai, un tentativo io lo farei, e se vuoi stare proprio tranquilla, tranquilla, tranquilla, comprati un bel divano letto. Vabbè, ok. Oggi, dopo il giornale radio e dopo questa lezione di vita coniugale, ci sarà la seconda puntata dedicata alla dinastia dei Saud, i padroni dell'Arabia Saudita, una storia che si intreccia con la guerra del petrolio a cui assistiamo in questi giorni, di cui parliamo sempre, ma anche con quella del terrorismo islamico. Ascoltiamo intanto un breve pezzo di Adel Jubeir, l'ambasciatore dell'Arabia Saudita in America e del giornalista Youssef Ibrahim. Stavamo dando la caccia a Bin Laden fin dai primi anni 90. Alla prima esplosione a Riyadh gli togliemmo la cittadinanza. Sapevamo che per noi era un pericolo e che stava pianificando delle azioni contro l'Arabia Saudita. Da principio il bersaglio di Osama Bin Laden fu la famiglia reale saudita. Per lui il nemico giurato era il regime saudita e il suo principale obiettivo era rovesciare quel regime. Osama, come ovvio, sapeva perfettamente che quel regime era protetto dalle forze armate americane. Quindi, per dare risonanza al suo messaggio, decise di attaccare gli obiettivi militari americani. E devo dire che per la prima volta ho dovuto registrare che una tale attività riscuoteva non poche simpatie. Ecco, dopo il giornale radio con Marina Milone racconteremo la seconda puntata della storia dei Saud. Mario, ci sono aggiornamenti? Sì, c'è la conferma che c'è una vastissima operazione in corso da parte delle autorità francesi. un ostaggio sarebbe stato preso e sarebbero di nuovo in fuga. Queste sono le ultime che sono disponibili. Poi, secondo me, avremo evoluzioni e versioni. Certo, anche, adoro, se intanto ci sarà diverse, subito dopo il giornale radio. Intanto hai ancora una bolla? Sì. Solo per chiedere sommessamente all'Unione Europea, al governo italiano, agli Stati Uniti, alla Francia, al Regno Unito, ma pensano di continuare a ignorare il fatto che la Libia è nel caos più totale, perché questa cosa è sparita dai radar di nuovo, no? Cioè, assolutamente è una cosa anche collegata ed è super collegata a tutto questo. Allora io mi chiedo, ma così proprio umilmente, come cittadino di un paese che ha primari interessi in Libia, se non sia il caso di fare un dibattito parlamentare su questo, insomma interrogarsi, ecco, chiedersi. Ma in Libia quale può essere oggi l'intervento da fare? Guarda, secondo te, Pietrangelo? L'unità territoriale della Libia è certamente a rischio. Assolutamente. Quindi qua bisogna decidere. Lo era come... anche con Gheddafi. Lo era adesso. Con Gheddafi, figuriamoci adesso. Quindi la si spartisce in tre e si fa una sorta di cosa federata, chiamiamola così, si prova con le tribù. Può essere un'idea. Ed è l'unica strada quella di trovare con le tribù, perché la Libia è quella che più di ogni altra nell'area del Maghreb è ancora retta dagli equilibri tribali. Tieni presente che su questo punto qua, cioè, c'è tutta l'eredità della seconda e anche della prima guerra mondiale, quindi sai, i confini disegnati con Righello, parliamoci chiaro. Vabbè, lo stesso problema c'era per l'Iraq, cioè l'unità territoriale dell'Iraq, quindi... E sono temi che sono che devono spariti. Tornare, intanto torneranno di attualità assolutamente. Per chiudere, niente da capire, triste, ma vero, di Francesco De Gregori. E non c'è niente da capire. E se tu fossi di ghiaccio, e se io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente e non ho niente di speciale.